Sura dell'avvolgimento, capitolo 81 del sublime Corano, è stata rivelata alla Mecca, consta di 29 ayat ed è scesa dopo Sura al-Masad, la Sura 111. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo, quando il sole sarà avvolto dalle tenebre e le stelle cadranno in ogni direzione, quando i monti saranno messi in movimento e le cammelle pregne di 10 mesi saranno trascurate, quando le bestie feroci si raduneranno in branchi, quando i mari ribolliranno, quando le anime saranno appaiate, quando alla bambina sepolta viva sarà chiesto per quale peccato fu uccisa, quando le pagine del libro del destino saranno aperte, quando il cielo sarà strappato via, quando l'inferno sarà ben attizzato e il paradiso sarà avvicinato, ogni creatura umana saprà ciò che fece di bene e di male. Io, Allah, lo giuro sugli astri che sorgono e tramontano, sulla notte quando scende, sul mattino quando alita. In verità esso, il sublime Corano, è certamente parola di messaggero d'alto rango, potente, stabilmente collegato presso il possessore del trono, obbedito e fedele. Non è tocco dai jinn il vostro amico. Egli, l'angelo Gibril, lo vide già sul chiaro orizzonte e non è geloso del segreto. Esso, il sublime Corano, non è parola di un diavolo maledetto. Dove andate? Esso, il sublime Corano, altro non è che un ricordo per tutti gli universi, per chi di voi o uomini voglia mettersi sulla retta via. Però voi non lo vorrete se Allah, il Signore degli universi, non lo avrà voluto.